Luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati. Ho deciso di portarvi a conoscere tanti capolavori. Ci concentreremo per un po' di tempo su alcuni quadri che hanno fatto la storia dell'arte italiana e sono noti in tutto il mondo. E cominciamo dalla Pinacoteca di Brera e cominciamo da un quadro celeberrimo di Brera, Il bacio di Francesco Hayez. Questo quadro è stato dipinto nel 1859, un momento storico molto importante per l'Italia, perché con la Seconda Guerra d'Indipendenza gli italiani insieme ai francesi riescono a cominciare il processo di unificazione che sarà poi completato nel 1861. Un nobiluomo milanese che si chiamava Alfonso Maria Visconti di Saliceto, che era anche un patriota, commissiona ad Hayez, che era il più grande pittore di Brera in quel periodo, questo strano soggetto medievale. È un cavaliere, un giovane cavaliere, che bacia ardentemente la sua amata. Sta per partire evidentemente per una guerra. È tutto ambientato nel mondo, diciamo così, del Medioevo, ma chiaramente il quadro diventa subito un'icona della cultura romantica, perché il bacio è qualcosa di più che un semplice gesto d'affetto, incarna l'intera cultura romantica. E d'altro canto questo bacio sottende un significato politico molto importante. Se osserviamo i colori di questi abiti, sono i frammisti, i tricolori francesi e italiani, sono una specie di bacio politico. La Francia e l'Italia si abbracciano e si baciano, finalmente unite in questo processo di unificazione dell'Italia. Hayez fece questo quadro, lo espose a Brera, come si usava una volta all'anno, c'era una grande esposizione di dipinti a Brera, e il nobile Visconti se lo tenne a casa sua fino agli anni 80 dell'Ottocento, poi ne fece regalo a Brera. Dobbiamo sapere che il quadro ebbe una fortuna enorme, tanto che Hayez fu costretto, perché Hayez in fondo non lo amava molto questo soggetto, a replicarlo più volte. Ne fece una versione nel 1861 proprio in occasione dell'Unità d'Italia, e in questo caso i vestiti sono solo il tricolore italiano, e poi una seconda versione nel 1867 da mandare a Parigi all'Esposizione Universale. Se osserviamo quest'ultima versione, vediamo che di nuovo i due tricolori italiani e francesi sono messi molto in evidenza.